A tempo di sport con Carlo Genta. Cari amici ascoltatori, siamo ai tempi supplementari per gli appuntamenti della domenica con lo sport. Settimana scorsa vi ho annunciato che sarebbe stata l'ultima puntata prima dell'estate, in attesa della ripresa del campionato a fine agosto. Non dico che ho scherzato, ma la cronaca della settimana ci ha imposto questo tempo supplementare, e l'ho imposto anche a voi che dovrete intervenire al telefono, se vorrete naturalmente. 800 24 00 24 è il numero verde. Siamo insieme oggi, come ogni domenica passata, fino alle 19. Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia. La cronaca, che è certamente quella della domenica, che è fatta di motori e di tennis, ma è la cronaca della settimana, cioè quella che è fatta di un sacco di porcherie assortite, come ben sapete, e delle quali, nostro malgrado, dobbiamo parlare. Ed è interessante, sarà interessante appunto parlarne insieme. Ma partiamo dalla cronaca vera, quella dello sport di oggi. Ci sono Nadal e Federer in campo a Parigi per capire chi sarà il re che accompagnerà questa sera nel ballo di gala la regina cinese, ai noi e non Francesca Schiavone come l'anno scorso. Ebbene, Federer ha partito fortissimo in questa finale, 3-0 e poi 5-2 con un set ball. Da lì solo Nadal, che ha vinto 7 giochi consecutivi, cancellando Federer dalla partita. Federer, che da lì in poi ha servito davvero malissimo e sta giocando davvero molto male. Nadal ha chiuso il primo set 7-5 e poi ha strappato subito il servizio a Federer. Adesso siamo 3-1 nella seconda partita. Cronaca che ci ha portato in Spagna, in Catalogna, per il Gran Premio di Barcellona, nel quale Stoner, come da pronostico, anche se si fa fatica in questi giorni a parlare di pronostici e scommesse, però qui siamo certi, nulla c'è di illecito e di marcio, semplicemente Stoner è in questo momento il più forte di tutti, imprendibile. Lorenzo alle sue spalle, Spies terzo, poi Dovizioso, quinto Valentino Rossi, che come sentiremo poi dalla sua voce deve accontentarsi in questo momento dei dettagli, e poi Simoncelli, che era stato il grande protagonista del sabato. Mario Poltronieri, buonasera. Buonasera, ciao Carlo, buonasera a tutti. Che gara hai visto tu? E allora, senti un po', mi consenti un, come si può dire, una piccola digressione? Le consento di carattere... quello che vuole. Ecco, guardi, allora, parafrasiamo Buzzati e il suo deserto del Tartari. Sì. Ci aspettavamo Simoncelli, non è arrivato. Ci si aspettava la pioggia, non è arrivata. Si aspettavano Valentino alla Ducati, e come la Ferrari e Alonso, due piloti fortissimi, le macchine non sono ancora arrivate. Quindi, nel complesso, una gara che abbiamo vissuto, diciamo, di tensione, ma con un risultato praticamente scontato in partenza, perché purtroppo Simoncelli ha sbagliato. Cioè, io in un primo momento ho pensato che fosse partito tranquillo, perché, viste tutte le critiche che aveva avuto, i fischi che stava ricevendo, ha detto parto tranquillo e poi vediamo. Ma partire troppo tranquillo non serve. Lì lui giustamente dice purtroppo ho staccato troppo presto la frizione, il motore ha perso giri, ho dovuto richiamare la frizione, eccetera. E fatto sta che ha perso praticamente la possibilità di pallonare veramente i primi. Questo fa anche capire che anche nella moto, ormai come nell'automobile, i distacchi, quando superano il secondo, cominciano a diventare un problema. Quando superano i due secondi, e credo che lo stesso pilota cominci a mancare la motivazione. Sì. Spero solo che l'altro davanti abbia qualche problema. Senti Mario, perché sono molto pertinenti le dichiarazioni di Rossi e di Simoncelli su quanto tu dicevi. Il rosso non è di moda quest'anno, ai noi. Valentino Rossi quinto deve, come dicevo prima, accontentarsi dei dettagli, cioè di vedere comunque Stoner, che però è laggiù in fondo, però almeno l'ho visto fino alla fine della gara, dice Rossi. Sentiamolo. Ci sono delle cose negative e delle cose positive. La cosa più positiva è il distacco dal primo, che è stato dimezzato rispetto alla nostra miglior prestazione. E addirittura vedevo Stoner fino alla fine, quindi non è male, e Lorenzo non era così lontano, quindi per quello siamo contenti. Però purtroppo abbiamo fatto una modifica al setting che di ieri per cercare di avere una moto un pochino più stabile, e la dovevamo provare stamattina nel warm up che purtroppo è stato bagnato, e stamattina nel sul bagnato era andata molto bene, quindi abbiamo deciso di rischiare di provare a partire così. Però invece in gara ho fatto troppa fatica, soprattutto in entrata, perché la moto mi partiva sempre dietro e quindi sono rimasto sempre lì, ho cercato di stare attaccato Dovizioso ma non ce l'ho fatta, ecco. Però dai, questa è una buona lezione per il futuro. Sempre dai microfoni di Mediaset, la delusione di Simoncelli. Non sono partito bene, ho avuto un buono spunto, dopo non so se ho tenuto un po' troppo la frizione nelle mani oppure mi ha slittato un po', dobbiamo vedere. E poi niente, ero settimo, ho passato Aiden, ho cercato di andare a prendere Valentino e Dovizioso che vedevo che non erano lontani. E ho tirato come una bestia, ma non avevo grip dietro e niente, vedevo che ero lì, un po' guadagnavo, un po' perdevo, sono sempre stato lì, alla fine gli ero arrivato a 6 decimi, penso così, e ho fatto un errore all'ultima curva che era un po' bagnata, e insomma gliel'ho data un po' su dopo, ho capito che non c'era niente da fare. Certo, Mario Poltronieri, che sentire il cannibale che dice non sono nemmeno riuscito ad addentare Dovizioso che era quarto fa un certo effetto. Sì, soprattutto perché Valentino è abilissimo sempre nel condurre, secondo la miglior diplomazia, tutti i suoi discorsi, e purtroppo però parlando così rivela che la messa a punto di questa Ducati è appunto macchinosa come quella della Ferrari, se così si può dire. Cioè non tiriamo fuori la solita frase, beh, per quest'anno andiamo avanti così, l'anno venturo pensiamo al nuovo progetto da subito. Cosa che tra l'altro la Ducati ha già fatto, perché ha già provato la macchina del 2012. Con questo non voglio dire che naturalmente non si diano da fare per mettere Valentino, che ha anche un'immagine da difendere, nelle condizioni di poter fare una corsa dove si sente protagonista, ma qui effettivamente ci sono dei problemi, credo, di partenza, così come nella Ferrari c'è problemi dall'aderenza, perché il carico aerodinamico non è sufficiente, questo diciamo è il problema più grosso. E altrettanto qui c'è un problema di telaistica. Adesso il davanti pare che vada bene, il posteriore che bisogna mettere a posto, però combinare le due cose non è poi così semplice. Sì. Valentino ha sicuramente delle doti, perché come è riuscito a mettere a posto le moto che ha guidato prima, le Honda, le Yamaha eccetera, sicuramente ci riuscirà anche qua, però ci vuole molto tempo. Tant'è vero che questo campionato, alla luce di quello che è successo oggi, quinta gara, ne mancano 13 se si farà anche il Giappone, sul quale ci sono dei dubbi per la questione delle emissioni atomiche. Diciamo, siamo a meno di un terzo del campionato, però già Lorenzo a 98 punti, Stoner con la vittoria di oggi a 91 gli si è avvicinato molto ed è il suo vero avversario, perché Dovizioso che è terzo a 63 punti, Pedrosa sfortunato come al solito, perché direi che si ripete troppo spesso la storia di Pedrosa che si fa male, certo, ne ha 61. Poi Rossi beh, con 58 e con quella moto non può farci niente. No, chiaro. Quindi, ma la sensazione comunque è che la Ducati stia ancora pagando in contanti ad ogni gara un inverno difficile in cui complici provenienti dalla spalla di Rossi, complici un certo ritardo in tutto quanto, non si è riusciti a sviluppare la moto in modo da presentarsi in maniera accettabile al via dei giochi. E tenendo presente poi che gli altri hanno fatto dei grandi passi, perché la Honda ha fatto dei progressi incredibili. È vero che Stoner si dimostra una volta di più di essere veramente fuori classe, perché riesce subito a prendere in mano una moto che era completamente diversa dalle Ducati che guidava lui. È anche stato l'unico nella storia a riuscire a spremere il meglio dalla Ducati, eh? Sì, senza dubbio. Beh, oggi mi faceva tenerezza vedere appunto Capirossi che dice beh, adesso stiamo migliorando eccetera, 230 corsi, io non so come ha ancora la grinta e la voglia di continuare a correre, però insomma è ammirevole. Sì, e d'altra parte i piloti di moto soprattutto sono ancora dei piloti antichi, sono ancora quelli che si dice, sfruttando troppo questa frase, quelli che buttano il cuore oltre l'ostacolo. E effettivamente è così, perché i piloti dell'automobile non sono più quelli di una volta. Adesso sono diventati dei prudenti. È vero che anche i circuiti motociclistici, che spesso sono gli stessi dell'automobile, hanno delle vie di fuga maggiori, però non so se te l'ho già detto una volta, ma mi ricordo sempre quando si decise nella Formula 1 di cominciare a pensare ai guardrail, e Jack Brabham nella riunione dei piloti si alzò in piedi e disse: chi è quel vigliacco che ha paura a correre tra gli altri? Cioè è tutta un'altra... Sì, c'è qualcosa di diverso, Mario? C'è qualcosa di diverso. Cioè, probabilmente nelle moto con tutta quell'aria addosso hai la pelle ancora dura, insomma. Mario, ti ringrazio, ci sentiamo ci sentiamo nei prossimi appuntamenti. Per un doppio appuntamento, perché abbiamo il Formula 1, il Canada a Montreal e la moto a Silverstone in Inghilterra. Sicuro, sicuro. Grazie Mario e per l'appunto, grazie. Buonasera. Alla prossima e per l'appunto gli appuntamenti della domenica con particolare attenzione alla cronaca motoristica resteranno con Dario Ricci da domenica prossima, poi vediamo cosa succede in settimana, ma in linea di massima da domenica prossima 16:30-17 per parlare appunto della cronaca dei motori con Dario Ricci. Adesso ci fermiamo per il traffico, subito dopo resteremo su due ruote perché ci tengo molto a farvi sentire o magari risentire una cosa. Poi nel menu di oggi, tanto abbiamo tempo fino alle 19, con il vostro aiuto, 800 24 00 24, naturalmente questa frittatona del calcio scommesse che terrà banco, parleremo anche di un po' di mercato, giusto per divertirci, andremo un po' in Spagna come facciamo ogni domenica, andremo in giro per l'Italia con Andrea Zordi, insomma un sacco di appuntamenti, restate con noi, traffico. I tuoi denti si muovono, sono sensibili al caldo e al freddo. Le tue gengive sono infiammate, si sono abbassate. Soffri di alitosi. Potresti avere la parodontite e perdere i tuoi denti. Previenila e curala con una tecnica non invasiva, biologicamente guidata, grazie ad Excellence Dental Network. Prenota una visita a Milano, Torino, Bologna, Firenze o Roma all'800 090 106 o su excellencedentalnetwork.com. Non perdere tempo. Salva i tuoi denti. 800 090 106. Strade in diretta. 8 km di coda sulla 15 della Cisa verso Parma per immettersi sull'autosole, code a tratti sulla 14 Adriatica in direzione Bologna tra Fano e Imola e poi a Bologna su tutto il raccordo a 14 autosole in direzione Milano. In direzione Genova code sulla 10, Genova Ventimiglia da San Bartolomeo a Savona e tra Renzano e il bivio per la 26. Sulla 12 Genova Livorno code a tratti da Versilia alla Spezia e da Chiavari per immettersi sulla A7. Ci spostiamo sull'autosole, code a tratti tra Valdarno e Firenze Nord verso Bologna, più a nord in direzione Milano, code a tratti tra Terre di Canossa e Casal Pusterlengo, nella zona traffico di conseguenza in congestione anche sulla via Emilia, sempre in direzione Milano. Ancora verso il capoluogo lombardo, code sulla 4 da Verona Sud a Ospitaletto e 2 km di coda sulla 7 Milano-Genova alla barriera di Milano Ovest. In direzione Roma, code sulla 12, Roma-Civitavecchia tra Civitavecchia Sud e Torri in Pietra e poi anche sulle due diramazioni, mentre sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo c'è coda per un veicolo fermo tra San Gabriele Colle d'Ara e da Sergi, sempre in direzione della capitale. Sulla 3 Salerno-Reggio Calabria code tra Lauria Nord e Buonabitacolo Padula e tra Petina il raccordo Sicignano-Potenza in direzione di Salerno. 8 km di coda in uscita dall'Italia alla dogana di Coccao sulla 23 Palmanova-Tarvisio e 6 km di coda a Vipiteno sulla 22 del Brennero. 1:30 invece l'attesa al traforo del Monte Bianco. È tutto, appuntamento tra mezz'ora. A tempo di sport. Finale del Roland Garros, finale parigina, Nadal ha vinto il primo set 7-5 e adesso sta servendo sul 3-2 nel secondo game, nel sesto game sul 3-2 Nadal, che in questo momento diventa 4-2, dunque ha un break di vantaggio su Roger Federer. Ci terrei in questa prima mezz'ora, però abbiamo aperto con le moto, con i motori e prima di tuffarci nella spazzatura calcistica ci terrei a restare un attimo su due ruote perché, dicevo prima, mi va di farvi riascoltare almeno una piccola parte della chiacchierata che in settimana abbiamo fatto con Ivan Basso, che è stato qui giovedì per raccontarsi, per parlare con voi, cosa che tornerà a fare dopo, ce l'ha promesso pubblicamente, dopo il Tour de France. Per parlarci anche del libro appena scritto, In salita contro vento. Da lì partiamo e vi faccio risentire una parte di questa lunga chiacchierata che abbiamo fatto con Ivan Basso. Mi auguro che durante quest'estate di appuntamenti quotidiani con A Tempo di Sport dalle 14 alle 15 possa diventare una piacevole abitudine quella di avere qui dei campioni dello sport con cui parlare. Basso, cosa c'è in questo libro? Ma c'è... Partiamo da lì.

siccome questi signori qui sono stati imputati di associazione a delinquere, giusto? Sì. Allora, perché non fa, non la giustizia sportiva, che quella non può fare niente, la magistratura ordinaria dovrebbe fare, quando è accertato l'accusa, fare come fa con i mafiosi, hanno lo stesso capo di imputazione e gli confiscano i beni. Allora io dico, faccio un esempio, non accuso signori, ma faccio un esempio: se il signor signore è colpevole, io confisco tutti i beni patrimoniali che ha, gli lascio solo la pensione per vivere, e vive anche abbastanza bene con la pensione. Però a questo punto ci pensano non una ma 100 volte a fare queste truffe qui, perché io, se il signor signori ammesso che sia colpevole, il tribunale gli dà 4 anni. Insomma, Luciano, bisogna anche seguire, io capisco la rabbia, ma bisogna anche seguire la legge, non possiamo nemmeno inventarci le pene draconiane. Quello che voglio dire è che la questione su cui mi preme discutere anche con voi è che, e chiedo subito conforti a Marco Bellinazzi, qui si tratta di scindere i livelli, okay? Va bene che c'è tutta sta polvere in giro, però questa storia mi sembra onestamente, allo stato delle cose e in attesa degli interrogatori che riprenderanno domani, mi sembra una storia, perdonatemi, ma di quattro coglioni che avevano voglia di soldi, di adrenalina, si sentivano invincibili tanto da raccontarsi qualunque cosa al telefono, come stiamo scoprendo, giocando senza paura con i telefonini come con le partite, millantando di qua e di là, probabilmente aggiustando qualcosa, però mi sembra un'organizzazione, un'associazione a delinquere davvero di bassa lega. Il problema vero è il piano diverso, ancora non accertato, che in questa storia ancora non c'entra, è quello della criminalità organizzata vera, che a livello mondiale sta giocando con le partite. Credo che tu abbia fatto un'analisi molto, molto chiara di quella che è la situazione. Ripetiamo, in una situazione abbastanza fumosa, in cui in questo momento, tra intercettazioni pubblicate, indiscrezioni e altro, si prova a far cadere un po' tutto. Se noi pensiamo che alcune ipotesi investigative riguardano un over di Interlecce o di Genoa-Roma, è chiaro che insomma, non c'era bisogno di smuovere chissà quali diciamo contatti di alto livello. Diciamo che in questo momento c'è questa indagine che riguarda una quarantina di persone, alcuni noti calciatori o ex calciatori, che potrebbe avere delle conseguenze, questa indagine, penali per queste persone, delle conseguenze sportive per i club che sono coinvolti maggiormente. C'è poi una sorta di secondo livello possibile, che coinvolge invece diciamo le serie maggiori e organizzazioni più pericolose. Sicuro. E ora è punto a capire se attraverso le testimonianze, gli interrogatori di questo primo livello, si potrà accedere al secondo, e lì ne potremo vedere delle belle, se si arriverà a quel livello. Io non ne sono tanto convinto. Io voglio chiedere un parere anche a una voce autorevole come quella di Fabio Monti dal Corriere della Sera. Ciao Fabio. Eccoci qui, buonasera a tutti. Eccoci. Che idea ti sei fatto sulle dimensioni di questa cosa che ci sta scioccando, no? Ci sta scioccando inevitabilmente, però se la guardiamo con un po' più di freddezza, non mi sembra una cosa gigantesca. No, non è una cosa di gigantesca, e probabilmente non è una cosa sorprendente, insomma. Di questo meno di tutto. Questo, io sono tutto tranne che sorpreso, ma l'ho detto diverse volte. Sì, sì. Anche perché le anomalie in questo campionato sono state tante, nel campionato di A, di B e di Lega Pro, soprattutto di B e di Lega Pro. E così come già l'anno scorso si erano visti dei risultati pazzeschi, insomma. D'altra parte, per stare al campionato di B, quando un campionato dura 42 partite, c'è tempo per fare qualsiasi cosa. Per perdere 5 partite di fila, per vincerne altre 5 di fila, c'è margine per qualsiasi tipo di recupero. Sì. Ecco, mi pare che questa potrebbe essere l'occasione per sistemare alcune cose che il calcio italiano per ora si è rifiutato di fare. Sì, quanto invece al piano di sopra, cioè quello di una criminalità organizzata, quella vera, che non è quella di questi quattro idioti, ma quella vera che ha le mani sul calcio, ma sul calcio a livello mondiale. Quello è un problema che sta sopra tutta questa vicenda e che esiste. No, io penso che se Blatter ha firmato un contratto, diciamo, di collaborazione, ha chiesto aiuto all'Interpol e ha speso parecchi soldi, e se il 15 di giugno il CIO affronterà per la seconda volta in una riunione con i rappresentanti, con i massimi rappresentanti dello sport mondiale, l'Italia invierà Abete, proprio per discutere questo problema delle scommesse. Platini tante volte ha lanciato l'allarme, evidentemente c'è la consapevolezza che internet, le scommesse in tempo reale, quello che succede nell'Asia determinano veramente degli scenari di enorme gravità. Quello credo che le scommesse siano veramente il cancro del calcio, perché se viene meno la certezza del risultato si può chiudere veramente baracche burattini e dedicarsi ad altro, insomma. Questo sicuro. Fabio, ti chiedo di rimanere in linea un attimo, abbiamo il traffico, e poi c'è questo episodio che, di cui Marco Benignazzo ha scritto, che mi citava e che è freschissimo, di Nigeria-Argentina. Quello sì, ci fa pensare molto più di Benevento, che cos'era? Benevento Cremonese-Paganese, l'incontro da cui è partito tutto. Quella mi mette più paura, se devo essere sincero. Traffico. Strade in diretta. Non c'è tregua per chi ha deciso di mettersi in viaggio in queste ore. Dalla tarda mattinata il traffico è molto intenso sulle direttrici nord e sud della rete autostradale per i rientri dal ponte del 2 giugno. Ci sono 8 km di coda sulla 15 della Cisa verso Parma per entrare sull'Autosole, code a tratti sulla 14 verso Bologna, Trafano e Imola, e su tutto il raccordo a 14 Autosole in direzione Milano. Verso Genova code sulla 10 da Imperia Est a Savona e da Renzano al bivio per la 26. Sulla 12 sempre verso Genova code a tratti da Versilia alla Spezia e da Chiave per entrare sulla 7 Milano-Genova. Sull'autosole code tra Valdarno e Firenze e lungo il tratto appenninico in direzione Bologna, che poi prosegue verso Milano in contracoda tra Terre di Canossa e Casal Pusterlengo. Nella zona traffico di conseguenza in congestione anche sulla via Emilia, sempre verso Milano. Ancora in direzione del capoluogo lombardo code sulla 4 da Verona Sud a Ospitaletto e 2 km di coda sulla 7 in ingresso alle porte di Milano alla barriera di Milano Ovest. Sulla 4 Venezia-Trieste code verso Venezia da San Giorgio di Nogaro alla tangenziale di Mestre. In direzione Roma code sulla 12 Roma Civitavecchia tra Civitavecchia Sud e Torri in Pietra, sulle due diramazioni sull'autosole da Frosinone e poi anche sulla 24 a partire da Tivoli, code sulla 3 Salerno Reggio Calabria tra Lauria Nord e Buonabitacolo Padula e tra Petina e il raccordo Sicignano Potenza in direzione Salerno. In uscita dall'Italia 8 km di coda alla dogana di Coccao sulla 23 e 6 km di coda a Vipiteno sulla 22 del Brennero, un'ora e 30 minuti invece l'attesa al traforo del Monte Bianco. È tutto, appuntamento tra mezz'ora. A tempo di sport. Noi siamo sotto shock fatalmente, no? Siamo scossi emotivamente per signori Doni Rodiani, che non sapevano neanche chi fosse, per Paoloni, che non sapevano neanche chi fosse, eccetera. Però, bisognerebbe essere un po' più scossi per quanto è successo nelle ultime settimane, ad esempio al massimo livello, cioè quello della FIFA. Poi sentiamo queste storie di Argentina e Nigeria che sono freschissime. Sì, si è giocato qualche giorno fa, tra l'altro in Nigeria, c'era un'Argentina molto rimaneggiata e stava perdendo l'Argentina 4-0. Si è arrivati al 90esimo, un amichevole, il 90esimo 4-0, fischi, la fine insomma normalmente. Invece sono stati concessi 5 minuti di recupero e l'arbitro, nonostante questo, ha continuato a far giocare finché non è riuscito a inventarsi un rigore per un sospetto fallo di mano di un giocatore nigeriano e l'Argentina è riuscita a segnare il suo gol, il gol della bandiera, con Boselli, l'attaccante del Genoa. Sembrava strana la cosa. I giornali inglesi, tra l'altro, apriamo una parentesi, la Federcalcio inglese è stata l'unica in qualche modo a schierarsi contro Blatter, contro questa rielezione, la quarta dello svizzero a capo della FIFA. Comunque dai giornali inglesi è arrivata la notizia che sarebbe stata aperta un'inchiesta proprio su questa partita, perché un flusso anomale di scommesse intorno al 75esimo, 80esimo, probabilmente anche su questi famigerati siti asiatici, sul quinto gol in una partita di questo tipo è stata riscontrata. Il coinvolgimento di questo arbitro, che tra l'altro doveva essere anche l'arbitro di un'altra chiacchieratissima partita, un'amichevole Bahrain-Togo, organizzata da un peruviano che tra l'altro è sotto processo perché ha truccato alcune partite del campionato finlandese, come vedi ce n'è di tutti i colori, la fantasia è galoppante. Il Togo tra l'altro doveva schierarsi con una squadra che in realtà non era poi il Togo, perché i giornalisti si sono rivolti alla federazione del Togo e la federazione del Togo non sapeva nulla di questa amichevole. Fatto sta che era lo stesso arbitro della partita Nigeria-Argentina. Cioè si inventano addirittura le partite pur le di amichevole. Ecco. Fabio, sì. dacci una mano anche tu. No, ma è stata peggio questa storia oppure quella della in settimana? Questa storia o quella delle rielezioni dell'imperatore Blatter con questo corollario di compravendita di voti con la CONCAF, di accuse di ritiro dell'unico oppositore. Insomma, mi sembra che sia un po' tutto lo stesso quadro. Sì, insomma, questo mi sembra veramente molto più grave. Quello che è successo alla FIFA era in questo caso ampiamente previsto, si inserisce in un quadro direi di degrado dirigenziale, chiamiamolo così, che è abbastanza conosciuto, di lotta per il potere di un personaggio comunque molto capace, che non vuole saperne di abdicare, di regolamenti che non prevedono un vincolo al numero dei mandati e quindi si può restare in carica per un sacco di anni, di regolamenti inesistenti, perché quando si arriva a decidere nel dicembre del 2010 quello che succederà nel 2022 per quanto riguarda il mondiale, già quello che succede nel 2018 sono comunque 7 anni e mezzo e quindi è tanto, addirittura arrivare al 2022 e farlo scegliere non dal congresso ma dall'esecutivo, è giusto fare come hanno fatto gli inglesi, cercare di pensare male e di scoprire che cosa c'è veramente alle spalle di tutto questo. Fabio, ti ringrazio. No, ancora una cosa volevo chiederti, su quanto scrivi oggi, fai un ritratto molto fosco sul futuro dell'Atalanta. Sì, io ho premesso che la vicenda non è ancora passata all'esame della magistratura sportiva, però se il quadro dovesse essere confermato, alla luce anche di quello che hanno detto ieri, di quello che ha detto ieri il pubblico ministero, mi pare che la situazione per l'Atalanta non sia bella. Ed è una cosa molto grave, perché sicuramente l'Atalanta non c'entra proprio niente. Però purtroppo la responsabilità oggettiva è uno dei cardini della giustizia sportiva, non soltanto calcistica. E quindi bisogna fare il conto con questo. Grazie Fabio, alla prossima, un abbraccio. Grazie a Fabio Monti. Banalizzate solo perché avete paura che si rompa il giocattolo che mantiene anche voi, il calcio è marcio ed è tutto da rifondare. Giuseppe, questa mi sembra demagogia a basso costo invece. 800 24 00 24, numero verde. Qui con me è sempre Marco Berinazzo, mentre io voglio fare un salto in Spagna dal mio amico Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo. Buon pomeriggio a lei. Senti, mi dai dal tuo osservatorio in paradiso, nel paradiso dello sport, una lettura di questo fenomeno. Che si dice in Spagna di queste, ma di queste nostre bassezze? Poco, si dice molto poco ancora, però io ti racconto un'altra storia. Quando ero in Inghilterra, no, nei miei 6 anni inglesi, io commentavo il calcio italiano per la televisione inglese. Prima era su Channel 4, poi British Eurosport e via dicendo. In primavera c'era la stagione dei pareggi, per cui i bookmaker italiani, qua stiamo parlando dei primi anni 2000, i bookmaker italiani non quotavano alcune partite, soprattutto il campionato di Serie B, perché erano chiaramente, il segno sarebbe stato X. In Inghilterra si continuava a poter giocare, perché in Inghilterra non lo sapevano, non erano gli stessi bookmaker e via dicendo, per cui la gente scommetteva e vinceva. E si sapeva chiaramente quali erano le partite che sarebbero terminate con dei pareggi. Nessuno ha mai fatto niente, non ha mai scritto niente, non si è mai detto nulla. Adesso improvvisamente vengono fuori, c'è il tè drogato, no? C'è il dramma familiare, il portiere che si redime, para, poi scommette, poi prende un gol, poi un altro lo para, insomma, no? C'è un po' di... C'è anche il dirigente che dice scommettevo per amore del Ravenna che volevo salvare, questa mi sembra la più comica di tutte, no? Avanti spettacolo. In Italia, no? Quindi un po' di teatro va sempre bene. Però queste storie qua sono vecchie, si sa da tempo. Io mi ricordo quando a un certo punto si fece una, non mi ricordo che partita di Serie A, giocava il Livorno contro un'altra squadra e la partita era chiaramente il secondo tempo, non giocano, noi mettiamo 4 in pagella a tutti, però i lettori del Fantacalcio si lamentano, dice come? No? Dice, però non hanno giocato, noi gli abbiamo messo 4, e dice no, però no, non va bene per il Fantacalcio. E mi arrivarono tante lettere di protesta. E la situazione adesso è venuta fuori, ma è una cosa che è lì da tempo e ormai si può scommettere su qualsiasi cosa, sono teoricamente soldi facili, che poi non lo sono, lo può dire Paoloni, però è chiaro, una grandissima tentazione. Certo. Per cui a me non sorprende, cioè, anzi sono contento che finalmente venga fuori. Sì, ma sai, adesso viene fuori qualcosa, viene alzato un sacco di... viene buttato un sacco di sterco nel ventilatore, poi vediamo che cosa resta per terra. Io in questo caso specifico ho sempre la sensazione che siano sti quattro poveretti, insomma, e che il vero pericolo stia molto più in alto. Filippo, dimmi due cose rapide che non c'entrano per fortuna con questa vicenda. Luis Enrique, la Roma è fatta? Ma guarda, ieri questo è un caso di giornalismo abbastanza inquietante, se vogliamo. Io ieri ero l'unico giornalista presente alla conferenza stampa, sì. Italiano, ovviamente, dico, c'erano spagnoli, c'erano. Lui non ha mai detto, è una questione di dettagli, c'è un accordo, no? E tante altre frasi che ho letto oggi. Però poi a un certo punto sono venute fuori, non si sa bene dove, perché lui ha fatto una conferenza stampa, io avevo fatto 5 domande, e poi no. Però così, oggi ci sono girano altre parole, va bene, va tutto bene. Secondo me si fa. Secondo te si fa. Però io leggo... il ragazzo ha un carattere complicato, eh? No, lo so, infatti. E anche Della Peña, che si porta dietro, è un altro... Della Peña vediamo, perché non sono così convinti di farglielo portare dietro. Non sono così convinti. Voglio dire, intanto non è, cioè, prima che venga a dimostrare le congene della panchina, magari facciamolo allenare. Perché fino adesso giocava, quindi che sia, sì, un grande stratega, giocava ed era anche infortunato. È da dimostrare, no? Che sia un grande stratega è da dimostrare. Però leggevo che appunto sentivo che uno degli impicci sarebbe proprio questo della Roma, che dice no, vabbè, vieni tu, ma Della Peña lo psicologo, lasciali a casa, che qui non... Comunque praticamente si fa, ragazzo, però appunto ieri, per quanto ne so io, la Roma non è stata felicissima della conferenza stampa, perché non è che lui ha detto ringrazio la Roma per la grande opportunità, io alleno in Serie B, la Roma è un grande club, no? Banalità di questo tipo non si sono sentite. Lui ha detto, ci hai preso una decisione? La risposta no. Cioè, non è che, per cui non è che sembra che muoia dalla voglia di venire, sì, alla Roma. Sì. E, quello che posso dire io è che non è che ha altre grandi occasioni qua, perché appunto l'Atletico Madrid è finita, quindi non è che c'ha grandissime squadre. Però vuoi perché magari la moglie gli rompe le scatole, o vuoi perché ha un carattere un po' strano, non è che proprio abbia detto oh, questa è l'occasione della vita, certo, vado a Roma e costruiamo il Barça dei Noantri. Sì, anche perché non è chiarissimo che cosa sia la Roma. Poi chiedo aiuto anche a Marco Beninazzo, perché a me fanno abbastanza sorridere tutte le voci che circondano la Roma, e arriva questo allenatore, prendiamo quel giocatore, ma ho capito, ma la società di chi è realmente? Chi mette il grano? Come sono le storie attualmente dal punto di vista societario? Quindi tutti questi presunti movimenti però di mercato sulla Roma mi fanno sorridere. Permettimi di dire una cosa, ho visto due partite di seguito del Barça B, uno spettacolo, sì, bellissimo, bellissimo. Questo, guarda, te lo posso dire col cuore, veramente sembra di vedere il Barça B, l'ho fatto con altri pupazzi, altri giocatori che sono molto meno famosi, molto più giovani, però uno spettacolo, quindi sì, qualcosa c'è, cioè l'allenatore vale sicuramente. La notizia sarebbe quella contraria, ho visto il Barça B, era stato uno schifo, questa sarebbe, no, la notizia vera. No, però voglio dire, giocano, questo è arrivati terzi in, no, un campionato competitivo con una squadra di ragazzini. Voglio dire, sì, non si chiamano Xavi e Iniesta, si chiamano Oriol Romeu e Sergi Roberto, eppure giocano uguale ed è un gran piacere. Io ho visto queste ultime due partite, è una, insomma, lui ci sa fare, sì, questo sicuramente. No, poi dopo, poi, un'ultima Roma, cosa. Roma è complicato, dimmi. Roma è un'altra storia. Un'ultima cosa molto rapidamente, perché visto che siamo sul pezzo, strillano in City in questo momento che in Spagna dicono Ibra al Real. Ma no, come se il mondo deportivo l'ha tirato fuori oggi, il mondo deportivo degli affari del Real Madrid ne sa poco. Il Mourinho ha detto che Higuaín e Benzema non li vende. In più c'è Cristiano Ronaldo, quindi c'è una quarta punta, che al momento potrebbe essere Adebayor, però io non vedo Ibrahimovic venire qua, cioè in questo quadretto di attaccanti, perché qui, insomma, secondo me cercano qualcuno con un profilo diverso. Potrebbe anche, tanto c'è da chiudere il discorso su Agüero, perché Agüero vuole venire al Real Madrid, poi il Real Madrid non vuole fare offese all'Atletico, però questa è una storia che è ancora in piedi. Io non la vedo tanto questa cosa di Ibrahimovic. Ma però, nemmeno io. Poi dopo, nemmeno io. Vedo più Sneijder al Chelsea. Rimbalza in Italia, però rimbalza, cioè, dal mondo deportivo. Il mondo deportivo non è, cioè, sai, se sono Marca e As, già qualcosa in più, a parte che siamo sempre in estate. Ma da lì non mi sembra il giocatore di cui ha bisogno Mourinho. Sì. Però, poi dopo tanto decide lui, solo lui ed esclusivamente lui. Grazie, no, Filippo. Però, Un abbraccio. A presto. Grazie a Filippo Mariarici. Marco Brignazzo resterà a farmi compagnia. Noi ci sentiamo dopo questa breve pausa. 800240024. Dopo breve interruzione, ripresa la finale di Parigi con Federer avanti nel secondo set 6-5 dopo aver perso e 15-0 dopo aver perso 7-5 la prima partita. Dopo. Scorte introvabili? Inefficienze? Alti costi di movimentazione? Scaffalature non certificate? Chiedi di più. Chiedi a Modul Block, membro certificato Acai Cisi, il risolutore qualificato dalla scaffalatura all'impianto automatico più complesso. Trasforma il tuo problema in opportunità. Chiedi di più. Chiedi a Modul Block. Modulblock.com. Tecnologie e logistiche di magazzino. Provare per crescere. Pochi secondi alla partenza su questo circuito davvero impegnativo. Ma che succede? I piloti scendono dalle auto e vanno in bicicletta. Non è detto che per lavorare in sicurezza si debba rinunciare alla competitività. Scoprilo nei seminari SISP, sviluppo imprese in sicurezza, organizzati in tutta Italia da Confindustria, INAIL, Fondirigenti e Federmanager. Una nuova cultura della sicurezza come risorsa per lo sviluppo. Vieni in Confindustria a scoprire come si fa. A Reggio Calabria, venerdì 10 giugno. Sviluppo imprese in sicurezza. E finalmente si torna in gara. Info su confindustria.it. Scusatemi, ma oggi mi girano. Ho appena comprato un nuovo TV. Tranquillo, una definizione perfetta. Poi vedo la partita a casa di Andrea sul suo Panasonic Viera. E quello sì che è una definizione perfetta anche con immagini molto veloci. Col mio il pallone diventa ovale come quello da rugby. Così Andrea si gode un Panasonic Viera. E a me mi girano. TV Panasonic Viera. Fai un confronto prima di comprare qualcos'altro. Panasonic. Ideas for life. Last Minute Opel. Si avvisano i passeggeri che solo a giugno Meriva partirà da 14.500 euro. Tornano i Last Minute Opel. Solo a giugno le offerte da prendere al volo. Nuova Meriva con ESP, clima e radio da 14.500 euro. Vola dai concessionari Opel. In ogni business la competizione è ormai globale. La tua azienda è pronta a cogliere la sfida. Il tuo reparto IT merita di più. Per la tua competitività migliora l'efficienza dell'infrastruttura. Cambia server. E riduci i costi operativi e i consumi di energia. Con i server Primer GRX 300 SSI di Fujitsu con processore Intel Xeon. Fujitsu e le soluzioni Make IT Dynamic. Cambia server e Fujitsu li supervaluta fino a 300 euro. Solo fino al 30 giugno. 800-466-820. Cambiaserver.it. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Domani al mattino molto nuvoloso al nord con piogge o temporali sparsi, eccetto in Liguria e nel basso Piemonte. Qualche pioggia anche nelle zone interne della Toscana, nelle Marche e nel sud della Sardegna. Nel pomeriggio migliora al nord-ovest con residui rovesci su Alpi e Piemonte occidentale, instabile al nord-est, Appennino centrale e Sardegna centro-settentrionale. Temperature in lieve rialzo al nord-ovest, in crescita anche al sud, dove si sfioreranno quasi ovunque i 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it. E con questo è tutto. C'era una volta l'energia, costosa, sprecata, ma necessaria. Poi arrivò Mr. Kilowatt. Mr. Kilowatt, il programma che ti aiuta a risparmiare e usare l'energia in modo consapevole ed ecosostenibile. Mr. Kilowatt, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24. In collaborazione con ABB, soluzioni e strumenti concreti per l'efficienza energetica. Sono Giuseppe Carnevali, presidente di Navionics. La nostra società è leader nella produzione di sistemi e cartografie per la navigazione. 3 anni fa, per le nostre telecomunicazioni, ci siamo affidati a Welcome Italia per l'efficienza delle linee e per il servizio clienti, che risponde sempre in 3 squilli. Con Welcome Italia la nostra rete è sempre aggiornata, proprio come le nostre cartografie elettroniche. Per non perdere la rotta, affidatevi quindi alle nostre mappe. Ma per le telecomunicazioni della vostra impresa, vi consigliamo Welcome Italia. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazioni per la vostra impresa. Scopri la differenza. Chiama l'800-945-945 o visita il sito welcomeitalia.it. Villa Moretti Baffo d'Oro presenta Ode al Luppolo. Humulus lupulus, profumo ristoratore che il ristoratore ben conosce, portami verso la qualità, verso il piacere, verso... ma non verso più, che la birra non dura per sempre. Ah, oh, dolce stappar che cuor rallegra. Grazie. L'ispirazione giusta crea sempre qualcosa di perfetto. Birra Moretti Baffo d'Oro, 100% puro malto italiano. La perfezione ha il colore dell'oro. Allora, prima bisogna costruire un home page e poi caricarci i prodotti. Ah, ecco, la tua impresa è online. Fai crescere il tuo business, costruisci il tuo sito. È facile e totalmente gratuito. Inizia subito, vai sulla mia impresa online.it. Da oggi sarà il silenzio a farsi sentire. Nuova Lexus CT200H, la prima compatta premium full hybrid al mondo. Da 29.000 euro o 296 euro al mese. TAEG 1143, esempio per la provincia di Roma. Fogli informativi in concessionaria. A tempo di sport. Torniamo insieme, sempre qui vicino a me, Marco Beninazzo del Sole 24 Ore. Prima di parlare con Stefano, provincia di Rimini, e Maurizio da Torino, che sono già in linea, 800 24 00 24. C'è chi scrive: visto che parlate di Spagna, spiegate la vicenda di Contador all'iscrizione al Tour. Molto semplice, era previsto un giudizio i primi di giugno, in questi giorni, sul caso Contador dell'anno scorso. Questo giudizio, che poteva sottrarre a Contador la possibilità di partecipare al prossimo Tour de France, fosse stato giudicato colpevole dal TAS, è stato spostato ad agosto e dunque Contador subiudice correrà il Tour de France. Invece Marco, prima di Stefano, spiegami, dammi un'idea sulla situazione della Roma, visto che se ne parlava prima. Beh, intanto mi faceva sorridere il fatto che si parlasse ora di Luis Enrique come allenatore della Roma, e qualche mese fa, quando c'era da concludere l'affare, si mancava, parlava solo Mourinho, di Ancelotti, quantomeno di Ancelotti, si parlava di Buffon, si parlava di altri grandi acquisti. Ora mi sembra che, giustamente tra l'altro, io dico, perché se si deve ripartire, è bene ripartire con una situazione economica più solida, quindi con giocatori giovani ma con bassi ingaggi, magari con allenatori che non chiedono grandi stipendi. Però dico, perché non Montella o qualche altro giovane italiano? È perdente inseguire la moda del Barcellona. Poi Luis Enrique magari verrà qui e ci insegnerà calcio, ma vedremo. Sì. La situazione è che l'iter si deve ancora concludere, quello di acquisizione da parte della cordata americana. Per il momento la Roma fa riferimento a Unicredit, che dovrà comunque prestare dei soldi. Quindi banalmente alla Roma. I soldi li per mette il momento Unicredit. Li mette Unicredit per fare la campagna acquisti, sono 30-40 milioni. E vedremo quello che si potrà fare con questi soldi. Insomma, dati i tempi, non è un patrimonio da trascurare. Però sono sempre soldi che metterà Unicredit. Gli americani per il momento hanno messo ben poco. Stefano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Un dubbio. Io ho seguito un attimo la vicenda delle scommesse, ho letto qualche intercettazione. Si parla di molte squadre e vari giocatori, però si dà per persa solo l'Atalanta praticamente. Il dubbio è, c'è qualche cosa che ancora non sappiamo, qualcosa che non è stato scritto perché ancora non si può scrivere, per arrivare a questa conclusione? Le faccio rispondere da Marco Beninazzo, così tiriamo in ballo anche Cesare, che è tifoso cremonese, che scrive: mi potreste chiedere la responsabilità oggettiva, che dicevo prima è abbastanza un'aberrazione dal punto di vista giuridico, però secondo me in casi come questo e applicati al calcio ha un senso, ha una ragione di esistere, perché la società, pur essendo stata danneggiata, comunque ha l'obbligo di vigilare quello che accade dentro casa sua, dentro le sue mura. Perché dico io, se molti sapevano, se tutti i bookmakers, gli scommettitori del pianeta sapevano, se i giocatori sapevano, possibile che tu, società, non sai nulla di certe manovre che si svolgono in casa tua con i tuoi giocatori e intorno a certe partite? Quanto all'Atalanta, Marco? Beh, comunque poi tra l'altro aggiungo, Carlo, che la società anche se non è consapevole con la dirigenza di un certo evento, può comunque trarne vantaggio, e da lì nasce il concetto di responsabilità oggettiva, sì, che riguarda il mondo e la giustizia sportiva. Io non dico che sei consapevole di quello che sta succedendo, però dei campanelli di allarme ce li hai, e quindi sei oggettivamente responsabile di quello che c'è il timore possa capitare. È quello che accade in casa tua, come giustamente dicevi. L'Atalanta è stata indicata come la squadra che rischia di più, anche perché ieri gli stessi inquirenti hanno fatto capire che si era aggravata la posizione del club bergamasco, e si annunciano già manifestazioni di protesta e cortei in settimana da parte dei tifosi, che sono sicuramente la parte danneggiata. Ma non è solo l'Atalanta che rischia, e dai documenti, dalle carte che per il momento abbiamo potuto visionare, emergono anche altre situazioni critiche proprio per il principio di responsabilità oggettiva. Prendiamo il Ravenna, in cui lì c'era un dirigente, là forse addirittura si può parlare di responsabilità diretta della società, e certo, dunque la situazione è molto critica. È critica anche la posizione dell'Ascoli, che aveva ben 3 giocatori a libro paga, così si dice, nelle intercettazioni. Può essere delicata anche la posizione, per esempio, di una squadra come il Benevento, che sta disputando i playoff, che in un primo momento non sembrava coinvolta se non per la presenza del portiere Paoloni, ma in una intercettazione sembrerebbe che appunto Paoloni faccia riferimento a una prassi, a un'abitudine a scommettere che apparteneva anche al presidente del club campano, e quindi potrebbe essere tirato dentro. Quindi siamo ancora in una fase preliminare in cui le responsabilità stanno emergendo e potrebbero colpire anche società che magari, come la Cremonese, non hanno colpe dirette. Anzi, la Cremonese ha denunciato, dopo l'episodio famoso dell'avvelenamento, un po' da film di serie B quello, ma hanno avuto però in qualche modo dei vantaggi o svantaggi, e dunque almeno dei punti di penalizzazione potrebbero subirli. Io mi aspetto in settimana anche altri episodi di diffamazione come quelli che cui abbiamo assistito, da De Rossi a quella lettera anonima che faceva nomi e cognomi di certi arbitri. Questa è appunto diffamazione pura, no? Beh, tra l'altro sì, assolutamente, e tra l'altro c'è, a parte le 600 pagine depositate perché facevano parte dell'ordinanza per le misure cautelare e di arresti, ci sono altre 400-500 pagine di intercettazioni che non sono state inserite, e quindi sulla base di letture più o meno veloci che magari certi giornalisti fanno, è facile poi immaginare o indicare nomi o sospetti, per cui io starei alla larga dai dubbi facili, ecco, in queste ore. Rischiamo soltanto poi di compromettere, sicuro, il prestigio di alcune persone. Allora, agenzia battuta adesso, 17.38 mentre sono 17.41, inasprimento delle pene per le scommesse e l'illecito sportivo, e soprattutto tolleranza zero contro l'omertà, ovvero i casi di omessa denuncia con un aumento delle sanzioni. Sono alcune delle misure allo studio della Federcalcio dopo lo scandalo delle scommesse. Maurizio, Torino, buonasera. Buonasera e complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, io ho sentito che c'erano anche delle squadre o delle partite di Serie A, e quindi ero curioso di sapere se la Lazio, io sono tifoso della Lazio, c'era, non so, qualche voce. Lo so che è difficile parlare perché la Lazio è quotata in borsa, quindi non si possono mettere in giro delle voci, però siccome anche in passato la Lazio purtroppo è caduta a volte in queste cose qui, e poi del calcio mercato, se avevate delle notizie sulla Lazio, perché questo periodo qui per i tifosi è il momento più bello, perché uno sogna sempre grande acquisto, il grande risultato e così via. Quindi uno sogna e basta, è il momento in cui uno sogna e basta. Poi capitano anche gli incubi come quello che stiamo vivendo in questi giorni, però io capisco, il momento dei sogni, si parla di Klose, ma poi alla Lazio dico, ma poi avremo un ospite che ci illuminerà forse un po' di più. Beh, la passione, come possiamo constatare, non passa. Lo stesso ascoltatore ti chiede le truffe, le scommesse e però degli acquisti. Insomma, forse è questo che farà sopravvivere un calcio, speriamo, più pulito. A proposito delle partite delle squadre di A, negli interrogatori, cioè nelle carte allora dell'ordinanza, proviamo a fare ordine, si citava un solo caso, cioè l'Inter Lecce famoso 1-0 per l'Inter, ma si era scommesso sull'over con 150.000 euro. Nel corso degli interrogatori che si sono svolti negli ultimi due giorni pare che siano emersi i riferimenti a tre partite di Serie A che coinvolgono cinque squadre. Sono fatte varie ipotesi, si parla di un Catania-Chievo finita 1-1, comunque squadre di quattro squadre dovrebbe essere di bassa classifica e una squadra di media classifica. Sì. Per il momento non direi di più, perché appunto alimenteremmo Catania-Chievo 1-1, Genoa-Roma 4-3, Inter-Lecce 1-0, quella che doveva finire con l'attacco più forte del campionato contro la difesa più debole del campionato. Sì, Genoa-Roma poi è stato smentito il riferimento a quella partita che coinvolgeva De Rossi, sarebbero altre Brescia-Bologna, le partite. Brescia-Bologna 3-1, sicuramente. Chievo-Sampdoria 0-0. Ecco, più o meno sono queste, le hai dette, io non volevo dirle, ma no, proprio perché non abbiamo la certezza che siano quelle, perché insomma se ne è parlato. Guarda, di certezze ne abbiamo pochino, pochissime sinceramente. Io adesso non so, direi che per il momento sarebbe meglio attendere perlomeno la fine degli interrogatori. Sì. Quello potrà dare elementi in più alla stessa giustizia sportiva, che deciderà prima. Il rischio è che si decida prima sotto la pressione della piazza, cosa che probabilmente accadrà senza avere tutti gli elementi completi, e magari poi non so, l'indagine penale si sgonfierà, non si passerà a quel livello ulteriore a cui accennavamo prima, e però intanto i tifosi magari dell'Atalanta saranno costretti a vedersi ancora la squadra in B. Sai, le fiamme del rogo si vedono già, no? Perché è così, è fatale, i tempi sono molto differenti tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva. È chiaro che la giustizia sportiva brucerà in fretta comunque questa vicenda con i suoi verdetti. Traffico, e poi diamo qualche risposta agli ascoltatori che vogliono sapere di mercato, non di partite. Strade in diretta. Proseguono i rientri dal ponte del 2 giugno in direzione nord, traffico intenso, a tratti anche fermo sull'autosole tra Toscana ed Emilia, sulla 14 Adriatica tra Abruzzo, Marche ed Emilia. Ci sono poi code di 11 km sulla 15 della Cisa tra Fornovo e Parma, sulla 3 Salerno-Reggio Calabria code tra Lauria Nord e Buonabitacolo e tra Petina e Contursi, sulla 4 code a tratti verso Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la tangenziale di Mestre e in direzione Milano tra Somma Campagna e Palazzolo. Traffico anche in Liguria verso Genova, sulla 10 code da Imperia alla 26 di Trafori e sulla 12 tra Versiglia e La Spezia e da Chiavari per entrare sulla Milano-Genova. Sull'autosole in direzione Milano code a tratti tra Terre di Canossa e Casal Pusterlengo, traffico anche in direzione Roma con code sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Civitavecchia e Torre in Pietra, sulle 2 diramazioni, sull'autosole a partire da Frosinone e sulla 24 a partire da Tivoli. Per il momento è tutto, appuntamento tra mezz'ora. Promo 24. L'emozione della Formula 1 è bello viverla da protagonisti. Con Pirelli si può. Acquistando 4 pneumatici Pirelli si riceve una card gratta e vinci per registrarsi sul sito e avere subito in premio una fotocamera Fuji. In più si possono vincere 2 biglietti per il Gran Premio di Monza. Non solo, una volta iscritti sul sito si partecipa anche al concorso online, scatta un'emozione e diventa protagonista con Pirelli. In palio 2 reflex e una videocamera digitale per la foto e il video più votati. Inoltre una giuria Pirelli decreterà i video e la foto più emozionanti e i vincitori riceveranno in premio VIP weekend per 2 persone per il Gran Premio di Abu Dhabi. Promozione valida fino al 5 agosto. Regolamento e rivenditori aderenti su pirelli.it/scatta e vinci. A tempo di sport. Dunque 7-5-7-6 per Nadal su Federer, 1-0 nella terza partita e Federer ha le mani sul Roland Garros. Carlo Laudisa dalla Gazzetta dello Sport. Ciao Carlo. Ciao. Così diamo qualche risposta di mercato a cominciare, cioè, l'ascoltatore sulla Lazio, non so se l'hai sentito prima, che da un lato sognava acquista su una squadra, dall'altro lato aveva gli incubi per la vicenda delle scommesse. Sì. La Lazio cosa fa? È vicino a close. Poi deve risolvere il problema di Muslera e nel frattempo ha prenotato Marchetti del Cagliari. Sì. Quindi poi ci sono tutti i discorsi per l'Ipsteiner in uscita e quindi comunque lo dito si sta muovendo già per fare il sostituto, quindi è una Lazio molto attiva. Senti Carlo, invece, sempre per la cronaca, prima citavo anche il sito del tuo giornale, con questa notizia: in Spagna dicono Ibra Real. Ma credo che il sito abbia ovviamente riportato quelle che sono le notizie che arrivano dai giornali spagnoli. Io sinceramente a questa ipotesi non credo molto, perché la lealtà nata fra Ibra e Milan mi sembra a prova di bomba. Quindi è un binomio che farà ancora parlare di sé. Non credo all'ipotesi che Ibra voglia lasciare il Milan, anche se Mourinho ovviamente lo stima molto, questo non è un mistero. Sì. Invece mi spiega, poi anche per concludere, anche per prendere Agüero, perché la realtà è questa. Sì, no, di sicuro. Mi spieghi invece questa vicenda Snyder, che un anno fa era il pallone d'oro in pectore, no? Sì. Si giocava, era il giocatore in più dell'Inter, era il giocatore che ha portato l'Olanda alla finale dei mondiali, era sul trono. Adesso perché va via? Perché vuole andare via? Perché l'Inter non mi sembra stia neanche facendo tutte queste scene per tenerlo. Sì, perché se ricordate che quest'inverno, o meglio, subito dopo l'Europeo, subito dopo il Mondiale, si era parlato, cioè c'era stato il rinnovo, ma questo rinnovo poi non ha fatto seguito a grandi prestazioni olandese. La realtà in questo momento è quella, ed è con questa che dobbiamo fare i conti, è che Hiddink ormai prossima a diventare allenatore del Chelsea, e quindi lo sta lusingando. Quindi l'Inter, che lo aveva acquistato per soli 15 milioni di euro, potrebbe fare una plusvalenza mica da ridere. Quindi tutti sarebbero tra virgolette contenti, perché nel frattempo l'Inter sta anche cambiando pezzi, quindi sappiamo bene che Moratti quest'anno dovrà cercare di fare un colpo come quello che gli riuscì appunto con la cessione di Ibra nello scambio con Eto'o. Il paradigma del mercato nerazzurro è questo, quindi grandi uscite, grandi entrate. Ti faccio fare una domanda da Marco Beninazzo, che magari è interessata, visto la sua fede calcistica, o no? Beh, direi che ci ha dato a noi tifosi napoletani, qui svesto i panni del giornalista, con questa storia di Hamsik e il Milan, possiamo dire che è definitivamente saltata. L'ha dichiarato nel comizio, nell'ultimo comizio, che chiusa la campagna. Perché so che lui ha idee diverse, insomma, e ha informazioni diverse. Mi hanno fatto giurare che non avrei preso Hamsik. Evidentemente a Napoli bellissimo. Non gli hanno creduto, Carlo, dati i risultati. Appunto, ma neanche noi gli crediamo. Quindi siamo dentro su chi va là, perché insisti. Quella è una traccia di mercato importante. Potrebbe essere quella, quindi, il grande regalo? Potrebbe anche essere quello, potrebbe anche non essere l'unico, perché per esempio in queste ultime ore si è parlato molto di Witzel, il centrocampista belga dello Standard Liegi, ma non è certo un'alternativa ad Hamsik, e non è un'alternativa a Ganso, perché se ci riflettete, tecnicamente tutti e tre potrebbero vestire la maglia rossonera. Questa è l'ipotesi di massima, ma non è da escludere, tecnicamente sono compatibili. Sì. Economicamente vedremo. Poi c'è quella storia dell'extracomunitario in più che precluderebbe che chiuderebbe la porta a Ganso, però mi sembra una questione abbastanza secondaria. Ma mi sa che in questo momento il mio presidente dell'Atto Calciatori, già all'atto del suo insediamento, ha dato un'apertura significativa sul secondo extracomunitario. Sì. Dopo le ultime vicende, credo che sarà sempre più bassa la guardia, perché purtroppo io temo che, voi avete parlato a lungo del calcio scommesse, ma io temo che questa sia una botta molto brutta anche per proprio la categoria dei calciatori. Sicuro. Perché purtroppo quella Lega Pro infinita, in cui si annidano tanti stipendi non pagati, c'è anche il rischio ormai evidente di situazioni molto borderline, quindi sicuro. È una vicenda da risolvere, e in tutta questa partita l'Astro Calciatori non può più essere forte e soprattutto avere un consenso che in passato invece gli ha permesso subito dopo la disfatta per il Mondiale. Io parlo a titolo personale, io non ho mai condiviso quella scelta di chiudere l'extracomunitario, perché è stato come un chiudere gli occhi davanti alla realtà, non era quello il problema. Ma sicuro. Poi, se ha fatto bene per un anno limitare gli ingressi di extracomunitari, abbiamo però chiuso gli occhi sul fatto che il mercato aperto a una comunità sempre più ampia in realtà non ha risolto il problema del calcio italiano. Sì, quella era semplicemente sabbia negli occhi, quella dell'extracomunitario in più in meno, che in effetti nulla sposta da nessun punto di vista. Carlo, ti ringrazio, ti abbraccio. Grazie a voi. Grazie a Carlo Laudisa. Io chiederò invece a Marco Bellinazzo di farmi compagnia ancora un po', anche se le voci di mercato lo hanno un po' rattristato. Beh, io direi che prima di spendere tanti nomi bisognerebbe fare un po' i conti con i numerini che sono nel bilancio, e quindi bisognerebbe essere molto sereni. Sull'Inter, per esempio, il mercato che ha fatto a gennaio credo abbia esaurito l'attivo da investire, per cui prima di dire facciamo grandi colpi in entrata e in uscita, direi che si fanno colpi grandi in uscita e dei colpi in entrata. Vediamo. Dove io continuo a pensare arriverà Sanchez. Quanto invece al discorso che in parte faceva Carlo Laudisa, cioè su questi campionati di Lega Pro infiniti, pieni di squadre e pieni di squadre indebitate soprattutto, già vi dico che proprio su questo si sofferma Filippo Beatrice, pubblico ministero di Napoli, uno dei due pubblici ministeri che stanno seguendo la vicenda di Calciopoli, intervistato Raffaella Calandra, proprio lì è andato a parare. Questi campionati sono il vero ventremolle. C'è già un progetto di riforma che dovrebbe portare le squadre dalle attuali 85 a 60, ma io credo che ci si arriverà anche prima della riforma calata dall'alto, perché saranno davvero in pochi quelli che riusciranno a iscriversi al prossimo campionato. Di oltre 90, 100 punti di penalizzazioni per mancati pagamenti di stipendi, contributi e tasse combinati quest'anno sono una spia lampante che lì qualcosa non funziona. E del resto abbiamo 132 squadre professionistiche, certo. In Spagna e Francia ce ne sono 40, in Germania credo 60 o poco più. Chiaramente un calcio, certo, che vive al di sopra. Poi al di sopra. Arriva Buffoni e dice scommettevo per salvare Ravenna, e lì applausi a scena aperta. Ci fermiamo per il GR. Marco Vinazzo sta con me ancora una mezz'oretta. 800 24 00 24 per intervenire. A tempo di sport. Ecco che torniamo, mentre giustamente Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore qui con me mi ricordava che domani sarebbe un'assemblea di Lega, ma abbastanza importante, su temi però ben diversi, quindi da quello del contratto collettivo a quello dei diritti TV. Non sì. Sono esattamente all'ordine del giorno in questo periodo. Però si dà il caso che questa era un'assemblea importante. Si dovevano un po' tirare le fila di lunghi percorsi. Uno, quello della contrattazione collettiva, il nuovo contratto collettivo, si ricorderà, ormai forse in tanti l'hanno dimenticato, ma si è arrivati quasi allo sciopero, sì, della Serie A. L'Associazione Italiana Calciatori, con Daniele Tommasi, nuovo presidente, ha firmato. Ora dovrebbero firmare i presidenti, e forse appunto questa era l'occasione, ma vedremo se ci sarà e che sviluppi avrà la Lega. E poi ci sarebbe l'altra questioncina dei 200 milioni di diritti TV legati ai bacini di utenza. C'era al lavoro un mini comitato di emergenza di presidenti e di rappresentanti delle big, delle 15 squadre medio-piccole, che dovevano trovare un compromesso, e vedremo se si continuerà a discutere ancora di questa faccenda, anche perché poi, Carlo, tra un po' bisognerà aprire il capitolo dei diritti TV 2012-2015. Certo. E allora, in sede di contrattazione, magari Sky Mediaset arriva e dicono: ascoltate un po', voi che vendete le partite, quanto volete per il vostro giocattolo finto? Il miliardo forse ve lo dimenticate, vi diamo la metà o poco più e poi litigate tra di voi. Ecco. Zitti pedalare, e se non bastano fate affari in altro modo. Intanto, sempre per la cronaca, Balotelli ignaro di chi fossero le persone di Scampia, altra allegra notizia di questa domenica. Sapete, è stato a Napoli per ritirare questo premio un anno fa e poi l'hanno ritratto con un paio di boss, e lui dice che appunto in compagnia di due elementi di spicco, di due dei più potenti clan della periferia nord di Napoli, Salvatore Silvestri del clan Lorusso e Biagio Esposito del clan degli scissionisti, Balotelli dice: non sapevo affatto chi fossero quelle persone. Quel giorno a Napoli per strada c'era sempre molta gente intorno a me, E aggiunge che si è arrabbiato con l'amica che lo accompagnava a Napoli nella visita a Scampia. Una visita, racconta che ha parlato con l'attaccante, è nata dalla curiosità di osservare da vicino i luoghi visti nel film Gomorra. Mario, nato a Palermo e sempre vissuto a Brescia, sembrava incredibile che potessero esistere posti come quelli descritti nei film, ma da qui a dire che amico dei camorristi ne passa parecchio. Quindi queste ultime dichiarazioni su questa vicenda, che sinceramente mi sembra abbastanza di confine. Carlo da Piacenza, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io volevo intervenire sul discorso del calcio scommesse, no? Sì. Che adesso ci stiamo tutti scandalizzando, eccetera. Però, io no, se devo dire la verità, per no, niente. Ma nemmeno io più di tanto, me ne spiego il motivo, perché cioè, visto che abbiamo le maggiori squadre europee, adesso il Milan non più, quest'anno ha cambiato sponsor, ma l'anno scorso ha sponsorizzato un'azienda di scommesse, il Real Madrid è uguale. Mi sembra abbastanza ovvio che poi la gente giochi e questa cosa qui ovviamente poi tende a degenerare. Cioè, ad esempio, se lei si collega sul sito della Gazzetta, tanto per fare un esempio, e lei clicca su qualche link, sì. No, ma che sia se leva sul sì, sito però, della Bwin, però no? Mi sembra un po' forzato fare 2 più 2 uguale a tutto sto casino. Cioè, che sia un grande business e che sia un business che può apportare degli aspetti distorti è indubbio. Dire semplicemente che come il Real e il Milan sono sponsorizzati o la Serie B di quest'anno, no, paradossalmente sponsorizzata da Bwin, e allora è tutto finto perché Bwin controlla o i grandi bookmakers controllano tutto il gioco. Non credo che sia esattamente così. Beh, io mi auguro di no e posso affermare che non è così. Sicuramente il business delle scommesse è sotto gli occhi di tutti, ma se vogliamo allargare il discorso, anche una delle voci di entrata del bilancio di uno Stato è fortemente influenzata da giochi, lotterie e simili ammennicoli. E c'è chiaramente un paradosso in questo. Ci sono anche delle squadre di il Palermo, la Juve, che sono sponsorizzate da agenzie di scommesse. Se però arriviamo a pensare con una certa mania complottistica che tutto questo significa appunto che il giocattolo si è rotto, che è tutto falso, io penso insomma che non andiamo molto lontano. Ci sono delle distorsioni. Il problema è che la debolezza, la fragilità economica del calcio italiano e in particolare del calcio minore fa sì che tutto questo diventi assolutamente permeabile a infiltrazioni di ogni tipo, e questo si può falsare e allontanare i tifosi veri poi dall'attenzione. Fabio da Napoli non se la deve prendere, scrive: a Scampia c'è molta brava gente, smettetela di denigrarci, pensate a Quarto Giaro. Senza pensare a Quarto Giaro, io non voglio denigrare nessuno e non ho dubbi che ci sia molta brava gente a Scampia, semplicemente è una vicenda che semmai va a denigrare chi ne è il protagonista, non certo la gente di Scampia. Non è che Balotelli è finito in questa vicenda perché è stato a Scampia, quanto perché lo hanno ritratto con due personaggi che non sono tra quella molta brava gente che gira per Scampia, mi pare. Il senso è questo. Antonio da Napoli, ho ragione o torto? Buonasera, buonasera. Gente, buonasera all'ottimo Belinazzo. Io, no, beh, sicuramente a Scampia ci sono sia le persone, diciamo, poco per bene che le persone per bene, ma voglio dire, io volevo intervenire sulla questione della... Questione del... Io sono più del Napoli, soprattutto uno sportivo, e io credo che questa storia del calcio scommesse, ma al contrario di quanto, diciamo, di come la pensino molti, io credo che sia destinato, o meglio io auspico che si sgonfi. Per questo motivo, secondo me, cioè tutte queste persone coinvolte, questi personaggi coinvolti, io credo che molti millantino e sì. Quando poi, voglio dire, io lungi da me dall'arrivare a dire le cose che dice il nostro Presidente del Consiglio sulle intercettazioni, però le intercettazioni sono uno strumento che secondo me va veramente utilizzato in una certa maniera. I magistrati devono stare anche molto attenti a come interpretare tutte queste storie, perché io credo che veramente, a parte i pochi squalli di personaggi coinvolti, non credo che per esempio sia giusto arrivare a far sì che l'Atalanta venga penalizzata, una squadra che ha meritato sul campo la promozione. Io quindi volevo semplicemente dire che secondo me bisogna circoscrivere la cosa e non allargarla per sì. Sensazionalismi. Siamo abituati a magistrati che vogliono fare, cioè, no, ma si tratta Antonio, si tratta di andare a scoprire cosa c'è di reale, di vero in questo momento. Ripeto, cioè, si è alzata moltissima polvere e c'è stata molta millanteria, c'è stato anche della diffamazione, come ho detto prima, c'è un clima da caccia alle streghe. Detto questo, se verranno accertate con gli strumenti legalmente corretti delle responsabilità anche oggettive, non vedo perché non perseguirle e non sanzionarle. Ci fermiamo per il traffico. Strade in diretta. Proseguono i rientri in città al termine del ponte del 2 giugno in direzione nord, traffico intensissimo a tratti fermo sull'autosole dalla Toscana fino alla Lombardia e poi in direzione della capitale sia per chi proviene da Napoli sia per le provenienze da Firenze. Verso Roma ci sono lunghe code anche sulla via Pontina all'altezza di via di Trigoria, si è anche verificato un tamponamento a catena. Incidente code anche sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Torni in Parte e L'Aquila nelle due direzioni. Per 16 km le code sulla 15 delle Cisa tra Fornovo e Parma, sulla 14 Adriatica si resta in coda tra Malotta Mondolfo e Bologna. Le code intorno ad Ancona si sono accumulate perché stasera c'è il concerto di Vasco Rossi. Al nord-est la A4 trafficatissima da Trieste a Padova, sempre in A4 code da Somma Campagna a Palazzolo verso Milano. A ovest è particolarmente trafficata la A10, la Genova a Ventimiglia, code a tratti da Imperia a Voltri verso Genova. Noi torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Torniamo con Marco Berinazzo che mi parlava di un retroscena che giuridico ma molto interessante. Sì, sono state disposte tra l'altro 50.000 intercettazioni, si parlava di questo prima, e io ero alla procura di Cremona quando gli interrogatori sono iniziati e devo dire che tutti gli avvocati puntavano molto su un'arma giuridica. Ora, senza entrare troppo nel tecnico, le intercettazioni non sono state disposte per l'illecito sportivo che prevede una condanna fino a 2 anni e quindi non consente di usare questo strumento, ma perché la procura di Cremona ha ipotizzato un reato, che è l'attentato alla salute pubblica, che secondo tanti avvocati, la storia del sonnifero nelle borracce, esattamente, non sarebbe stato configurabile. In poche parole, quel reato ci sarebbe quando, per esempio, in un acquedotto si immettono delle sostanze velenose capaci o potenzialmente di avvelenare una popolazione intera. Mentre nel caso di Paoloni, che mette l'ansiolitico nelle bottigliette dei compagni, non sarebbe appunto definibile questa figura di reato, ma un'altra per la quale le intercettazioni non sarebbero state possibili. Quindi tutti gli avvocati auspicavano il silenzio da parte dei loro assistiti, ed effettivamente qualora tutti fossero stati zitti c'era il rischio che gli avvocati potessero tutti insieme ricorrere e far annullare le intercettazioni. Sì. Venute meno le intercettazioni, il castello sarebbe crollato e quindi staremmo parlando di aria fritta. Invece prima uno, poi l'altro hanno iniziato a parlare, a cantare e quindi allora, diciamo, diventano ammissi, cioè riescono a recuperare il materiale che sarebbe stato non utilizzabile attraverso queste dichiarazioni. Esattamente, rese. Questo retroscena insomma rende ora invece di nuovo pericoloso parlare semplicemente insomma di un manipolo di accaniti giocatori qualora si riuscisse poi a passare a quel secondo livello, a quelle pericolose infiltrazioni della criminalità organizzata, di cui anche a Napoli si sta indagando. Sì, è difficile passare a livello, come li ho chiamati io molto più brutalmente, di questi quattro coglioni, al piano di sopra, che è quello invece veramente pericoloso. E a questo proposito abbiamo in linea un collega che è Gianluca Ferraris di Panorama, che sta indagando su questa, lavorando su questa vicenda, ma che soprattutto ha scritto un libro dal titolo, beh, profetico, non lo so, molto realistico forse, Gioco sporco, un romanzo di camorra, 'ndrangheta e scommesse, edito da Dalai. Buongiorno Gianluca, grazie. Buongiorno a voi, grazie. Senti, che idea ti stai facendo di questa vicenda? Ma l'idea che mi sto facendo è piuttosto chiara, al di là di quelle che sono chiaramente le responsabilità e i profili penali che dovranno essere accertati, però il quadro di fondo è molto squallido. E però purtroppo allo stesso tempo non dovrebbe stupire nessuno, perché così come racconto nel mio romanzo, la realtà che conosciamo e che gira intorno al calcio, specialmente intorno a un certo calcio, è questa da anni ormai. Però io credo ci sia uno stacco, no? Già evidente tra questa vicenda di questi che commettevano, che provavano ad aggiustare partite di Serie B, di Lega Pro, eccetera, e il piano di sopra, per cui c'è un'inchiesta già in corso, correggimi se sbaglio, Marco Verinazzo, a Napoli, e che riguarda effettivamente infiltrazioni appunto delle organizzazioni criminali grandi, vere, Camorra, 'Ndrangheta appunto, nella tentativo di riciclare denaro attraverso le scommesse. Assolutamente, va detto che insomma, le scommesse, da quando sono state liberalizzate, sono diventate ahimè uno dei canali preferiti di riciclaggio per i clan, e naturalmente mi riferisco non solo alle scommesse sul calcio. Qualche tempo fa si disse, l'assunto fu, le scommesse alimentano la criminalità, tanto vale legalizzarle. A qualche anno di distanza abbiamo capito che proprio così non è andata, e l'agenzia che tu leggevi poco fa circa un nuovo possibile giro di vite, permettimi di dire abbastanza tardivo, da parte della Federcalcio, lo conferma. Insomma, potremmo un po' avere sbagliato strada. Al di là di questo, è anche vero quello che dici tu, che non ci sono ancora prove di contaminazioni a livelli così alti, insomma, secondo e terzo livello, quello di cui si parla adesso. Sì. È vero però che per la teoria dei vasi comunicanti alle mafie raramente sfugge qualcosa, e soprattutto in un campo del sud, se un risultato è aggiustato, di solito i clan lo vengono a sapere, quindi non è impossibile, ed anzi mi risulta che sia così, che tra le carte di Napoli ci siano diversi episodi che collimano con quelli descritti dall'ordinanza di Cremona. Sì, e questo è credibile, no? Cioè, sì, vengono a sapere che ci sono comunque partite pasticciate per altre vie, e ovviamente lì si infilano. Hanno soldi da investire, da ripulire, e quindi insomma, quale occasione migliore? Beh, immaginiamo noi non siamo dei criminali, ma immaginiamo il ragionamento, come dire, che può fare un criminale che ha guadagnato in maniera illecita 3 milioni, può investire su una sola partita e sui tre risultati 1 milione, in ogni caso vincerà, perché quello che vince è 1 milione pulito che gli torna in tasca, che può rimettere nell'economia legale. Questo è ovviamente un esempio molto banale quello che ho fatto, ma grosso modo poi le logiche sono queste, credo. È così, Gianluca? Esattamente, anche perché alcune cifre che abbiamo visto a proposito di certe partite, anche queste dovranno naturalmente essere confermate dalla verità processuale, però credo che nessuno sano di mente, nemmeno se sicurissimo del risultato, andrebbe a investire 23 milioni su un Atalanta Piacenza, 23 milioni di euro. È chiaro che ci devono essere interessi di altro tipo, necessariamente convergenti e non necessariamente invece puliti. Sì, che poi aggiustare una partita di calcio, al di là di tutto, sembrerò ingenuo, però aggiustare una partita di calcio non è nemmeno così semplice, come d'altra parte questi signori si sono accorti, perché hanno perso diversi soldi su alcune partite che molto per millanteria, a mio giudizio, sembravano aggiustate. Assolutamente, questo è uno dei motivi per cui secondo me nelle carte dell'inchiesta di Cremona insomma, i giudici Salvini e Di Martino, che sono persone estremamente preparate, uno viene dall'antiterrorismo e uno dall'antimafia, su circa 50.000 intercettazioni disposte, alla fine ne hanno tenute buone 120-130, adesso non ricordo il numero esatto. Tutto il resto può essere assolutamente catalogato alla voce chiacchiere da bar, le stesse che potremmo fare noi dinanzi a una partita. Sì, il problema è che adesso, in questo particolare momento, le chiacchiere da bar diventano verità processuale, perché adesso ci troviamo nel momento più delicato in cui, ma l'abbiamo visto con la vicenda De Rossi, l'abbiamo visto con le lettere anonime, l'abbiamo visto con tutti i nomi che sono stati anche in maniera bizzarra fatti in questi giorni. Questo è il momento più delicato dell'inchiesta, perché è quello dei roghi in piazza. Certo, l'impianto accusatorio reggerà soltanto nel momento in cui sarà confermato da alcune verità. So che alcune stanno già emergendo, iniziano già ad esserci, insomma, dei riscontri anche finanziari, oggettivi, insomma, gli assegni e le altre cose. Naturalmente ci vorrà del tempo, e io sono anche convinto, come di solito succede nelle inchieste di questo tipo, che i profili penali siano destinati a sgonfiarsi. Sì, sicuro. Questo non toglie che invece dal punto di vista sportivo c'è chi rischia grosso, mi viene in mente l'Atalanta in primis, e insomma mi dispiace anche molto perché, come diceva un ascoltatore poco fa, secondo me ha legittimamente meritato la promozione sul campo quest'anno in un campionato che è stato difficilissimo, ma qualche cosa andrà fatto, perché insomma poi anche lì non possiamo esserne sicuri, perché episodicamente, ciclicamente sentiamo parlare di necessità di fare piazza pulita, di necessità di riscrivere le regole in senso più stringente, di punire davvero insomma chi ha leso la reputazione del calcio, ammesso che ne abbia ancora una. E poi insomma un paio di anni dopo siamo qui in onda a telefonarci a commentare lo scandalo successivo. Sicuro. Grazie Gianluca, alla prossima. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Gianluca Ferraris, collega di Panorama. Allora, è uscito il sequel dell'agenzia di qui sopra, cioè quello secondo cui la Federcalcio inasprirà le pene contro l'omertà. Scrive questa agenzia: le linee della modifica del codice di giustizia sportiva ai capitoli scommesse e illecito sportivo, le articoli 6 e 7, saranno annunciate domani dalla Federcalcio in giunta CONI e poi discusse dal Consiglio federale in programma giovedì prossimo. La FIGC indicherà anche la via di un processo sportivo dall'iter accelerato e dai termini abbreviati nella tutela di diritti di difesa. Dopo l'incontro di questa mattina tra Abete, Petrucci e Pagnozzi, un comunicato congiunto di CONI e Federcalcio ha ribadito l'esigenza di una maggiore collaborazione con gli organi dello Stato, e la stessa esigenza sarebbe ribadita domani in giunta CONI. È chiaro che si ripresenta il problema della discrasia di tempi tra profilo penale, tra la magistratura ordinaria e quella sportiva, che ha bisogno di minori elementi naturalmente, però ha bisogno di concludere tutto in frettissimo. Diciamo che siamo nel paese in cui le vicende calciopoli dal punto di vista sportivo hanno forse da tempo esaurito i loro effetti. La Juve è tornata in asta, ancora pagando diciamo quei ritardi strutturali, ma dal punto di vista delle condanne sportive ha pagato le sue pene, e Calciopoli, la parte penale, deve ancora concludersi in primo grado. È stata fatta la requisitoria, sono stati chiesti 5 anni e 8 mesi per Moggi, ma le sentenze di condanna in primo grado devono ancora arrivare, poi arriveranno quelle in secondo grado. C'è il rischio che si vada verso la prescrizione, dunque c'è questa discrasia e c'è una tendenza a calcare molto la mano sul piano sportivo, a trovare dei colpevoli e a buttarli in piazza. Certo. E poi il profilo penale appunto rischia di passare in secondo piano. Quasi non interessa più a nessuno. La FIGC è molto in difficoltà in questo momento, perché dà sempre un po' l'impressione di arrivare quando i buoi sono scappati dalla stalla, ed è chiaro che l'annuncio di un inasprimento delle pene e delle sanzioni sportive come dire, cerca di rimediare a questa sensazione di inadeguatezza. Servirà, non so se servirà inasprire le sanzioni, sicuramente accertata la responsabilità penale, certi soggetti dovrebbero essere allontanati per sempre dal mondo del calcio. Invece anche con la vicenda Calciopoli non mi risulta che stia sempre avvenendo così. Che stia avvenendo così, certo. Giorgio da Bologna, poi ci fermiamo un attimo. Buongiorno. No, niente, buongiorno. Mi scusi, ho sentito dire, cioè, sul fatto di Calciopoli, queste storie qui, cioè, mi sembra talmente, cosa ne pensa lei, dico così, cioè, mi sembra talmente logico, no, di che? Che ci meravigliamo, qui non siamo mica dei coperchi, cioè, quello voglio dire, è lo specchio della società, siamo uno dei paesi più corrotti al mondo, cazzo, cioè non esiste la giustizia, qui i potenti, capito, ci piacciono, dice la giustizia, ti piacciono degli avvocati, tutto quanto va, cioè non c'è niente da fare, qui stiamo andando, cioè dobbiamo metterla com'è veramente, senza né fascio né non fascio, qui cioè? Perché siamo... C'è un paese allo sfascio, di qui bisogna unire tutto, siamo un paese talmente allo sfascio, talmente putrido, che non ci si cava più le piedi, perché il potente si salva, perché? Perché c'ha, insomma, i soldi sono tutto, non c'è niente da fare, oggigiorno con la crisi e tutto quanto, il lambaradà che c'è, qui non ci sono, fascio non fascio. No, va bene. Siamo un paese corrotto, questo lo sapevamo anche prima di sapere che Signori e i suoi amici tentavano di aggiustare le partite. Insomma, nulla cambia nell'immagine, grosso modo, dell'immagine di questo paese. Adesso non ci resta che andare a scommettere sui playoff di Serie B di stasera. Cosa dici? Beh, potrebbero essere nella storia i playoff più inutili fin qui sono disputati. Caricaturali, insomma. Direi. Sono veramente una caricatura questi playoff che, insomma, che stiamo vivendo, che stiamo sopportando in questi giorni. E del resto, sai, sarebbe stato anche molto problematico annullarli in attesa che determinate responsabilità vengano accertate. Mi metto anche un po' nei panni, ora non voglio difendere la FIGC da questo punto di vista, però effettivamente poi... No, no, giusto che si vada, giusto che si chiuda pur in questo clima surreale la stagione regolare. Diciamo che chi supera le semifinali potrebbe avere una speranza in più, anche se poi dovesse perdere la finale. Diciamo così, anche se siamo il paese dei corrotti, per dirla come siamo Giorgio Davolo, molto corrotti. Marco, ti ringrazio, ci sentiamo nei prossimi giorni, tanto l'estate sarà lunga. Spero magari per parlare di argomenti un po' più ameni, tipo il calciomercato del tuo Napoli. Alla prossima. Grazie. Noi ci fermiamo qui, ma abbiamo un'altra mezz'oretta da vivere insieme, mentre in questo momento Nadal non vince il Roland Garros. Vi ho fatto uno scherzo, perché perde il terzo set, che va a Federer 7-5, dunque Nadal ha vinto i primi due 7-5-7-6, terzo set a Roger Federer 7-5, e si continua a giocare a Parigi. A dopo. Carlo, sveglia, devi andare al lavoro. Sì, ancora un paio d'ore mi alzo. Abituatevi a fare con comodo. Oggi Volkswagen Transporter è vostro con soli 299 euro al mese in 60 rate. Tanco a 3,5 TAEG 5,57. Fino al 30 giugno, salva approvazione Volkswagen Bank. Condizioni presso i concessionari e su volkswagenveicolicommerciali.it. Stai acquistando, vendendo o affittando un immobile? Nella tua agenzia immobiliare di fiducia richiedi la garanzia Vesta House Warranty. È compresa nel prezzo. Per 10 anni, assistenza e manutenzione gratuita. Grazie a Vesta House Warranty, il tuo immobile manterrà intatto il suo valore nel tempo. E in più, nelle Vesta Agency, nessuna provvigione per chi vende. Numero verde 800 97 44 44. Per saperne di più, vestahousewarranty.it. I like to teach the world to sing. Sing with me. Perfect harmony. 125 anni di Coca-Cola. 125 anni di felicità insieme. Guarda che se continui a strofinarlo non esce il genio del cruscotto. E che tra sole e polvere mi si rovina. Usa Smash Cruscotti. Nutre e protegge tutto il cruscotto nel tempo. È garantito da Arexons. Alza un po' la radio. Sono Paolo Pininfarina. Da 80 anni il nostro design esprime eccellenza estetica e tecnologica. Come Arexons, che da sempre si prende cura delle nostre auto. Arexons makes the difference. In ogni business la competizione è ormai globale. La tua azienda è pronta a cogliere la sfida. Il tuo reparto IT merita di più. Per la tua competitività migliora l'efficienza dell'infrastruttura. Cambia server. E riduci i costi operativi e i consumi di energia. Con i server Primer GRX 300 SSI di Fujitsu con processore Intel Xeon. Fujitsu e le soluzioni Make IT Dynamic. Cambia server e Fujitsu li supervaluta fino a 300 euro. Solo fino al 30 giugno. 800-466-820. Cambiaserver.it. Buongiorno. Buongiorno. Il pieno, per favore. Ed ecco il bomber che esce dalla sua auto. Supera un erogatore, si appresta al tiro e... Gol! Da IP sono arrivate le Mini Match Balls, 4 mini ball sportive per la tua estate. Calcio, rugby, volley e basket. Per averne subito una bastano 3,99 euro in più ad ogni rifornimento minimo di 30 euro di carburante. Collezionale tutte. E alla prossima, volley! Dal 16 maggio fino ad esaurimento scorte. Info dai gestori aderenti su ip.gruppoapi.com. Una storia conosciuta in tutto il mondo viene raccontata da oltre 50 anni e parla di noi, del nostro saper fare, produrre, inventare. Una storia tutta italiana che non smette mai di stupire. Unicità d'Italia, a Roma fino al 25 settembre, Palazzo delle Esposizioni e Museo Macro di Testaccio. È un'iniziativa promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico. Benvenuto nel servizio clienti Quixa. E ho visto sul sito tutte le garanzie che si possono includere nella polizza. Sì. Tante. Sì, però può scegliere solo quelle che le servono. L'anno prossimo metto anche l'assistenza in viaggio all'estero. Ho un forciato Cookwell. Così, ma chi era? Sa come si dice caro attrezzi in norvegese? Da oggi Quixa ti offre ancora più garanzie per la tua polizza auto. Puoi includere anche l'assistenza in viaggio all'estero. Se ti serve, lo scegli tu. Fai un preventivo. Vai su quixa.it. Quixa. Diretta. Personale. AXA. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo. C'è chi twitta e chi blogga, chi fa il download, chi preferisce lo stream, chi rippa e chi masterizza, chi scarica l'app, chi gioca col joypad. La tecnologia ci cambia la vita. 2024 vi spiega come. Prodotti, novità, approfondimenti, curiosità, videogiochi e giochi. Sono Enrico Pagliarini e vi aspetto il sabato tra le 15.30 e le 17. Tra gli argomenti della prossima puntata, tutto sulla navigazione satellitare, a partire dai nuovi servizi di infomobilità. Siamo sicuri che oggi basta lo smartphone? Sabato 11 giugno, collegamenti in diretta con il punto vendita Unieuro di Collegno, Torino. A tempo di sport. Ancora mezz'ora insieme, 800 24 00 24 per le vostre telefonate, a cominciare da Marco da Napoli. Buonasera. Buonasera. Senta, io sono d'accordo pienamente con lei sul discorso che secondo me un dentista di Ancona, un ex grande calciatore come Signori e qualcun altro, un portiere diciamo di Serie B, Serie C, non avevano, secondo me, non hanno tutto questo potere per poter falsare un campionato intero. Questo è un mio parere, poi vabbè, staremo a vedere un po' con hanno forse, o sentono di avere forse il potere per condizionare certe partite, magari senza riuscirci. Con lei sono perfettamente d'accordo. Io però sono sempre più indignato su una cosa che purtroppo negli ultimi mesi non è venuto fuori. Io per esempio sono da più di un anno indignato di quello che è successo sul Lazio-Inter, lei si ricorderà benissimo l'anno scorso, su quello che è successo alla fine di questo campionato, con il Cesena che è andato a vincere due partite fuori casa, che in condizioni normali non avrebbe mai vinto e si è aggiudicata la salvezza, così come non parliamo di Bologna e Cagliari che nelle ultime domeniche hanno regalato punti a destra e a manca. Hanno fatto questo beneficenza, sì. Negli altri campionati Marco, questo... io distingue. Sì, questo negli altri campionati non succede e ha ragione. Questo negli altri campionati tendenzialmente come mentalità non succede, è una mentalità molto nostra. Io distinguerei il piano di Lazio-Inter dell'anno scorso, perché lì c'entravano altre storie, come lei sa, dovute a questioni di campanile, e quindi quello lo lascerei un po', insomma, isolato quell'episodio. Quanto agli altri, è vero, è questione di mentalità nostra, no? Noi sappiamo benissimo, ma siamo talmente abituati a non farci nemmeno caso, sappiamo benissimo che alla fine della stagione, se c'è una squadra che ha bisogno di punti, quell'altra che non ha più grandi obiettivi, in linea di massima sappiamo come va a finire, questo senz'altro. Però, ripeto, questa è questione di mentalità, no? Sì, sì, io un'altra cosa volevo dire, per concludere, per riassumere. Si è fatta tanta propaganda dopo Moggi, poi si è scoperto che alla fine tutti telefonavano, forse quando telefonavamo oggi gli altri scattavano, quando telefonavano gli altri non lo facevano, però abbiamo visto che poi alla fine chiamavano tutti. Si è fatta tanta propaganda che il calcio era pulito, ma mi sa che non cambieranno mai le cose. Mi riallaccio un po' a quel simpatico radioascoltatore, chiedo scusa, di Bologna, che siamo tutti il paese dei corrotti, no? Questo è vero, però diciamo, secondo me Moggi, si parlava tanto di Moggi, ma Moggi stava a capo della cupola, però poi un po' tutti gli altri se la sono come dire, cavata bene. Se la sono asciugata. Ma guardi, qui Marco, il discorso ci porta molto lontano. Mi preme però notare, lei ha ragione a dire che è una questione di mentalità tutta italiana, però il vero piano preoccupante delle scommesse non è quello dei rubagalline di qui sopra, perché fino a prova contraria di ciò si tratta, quanto quello che coinvolge non solo e non tanto il calcio italiano quanto il calcio a livello mondiale, perché ad ogni congresso dell'UEFA o della FIFA si mette il monito sul vero pericolo, che è quello dell'inquinamento dei risultati, ma a livello mondiale, con la criminalità organizzata anche qui a livello mondiale che entra pesantemente in gioco per questioni di riciclaggio eccetera eccetera. Quello è il piano veramente preoccupante per lo sport attuale, in particolare per il calcio attuale. Come può spiegare il PM Filippo Beatrice, che è uno dei due insieme a Narducci che segue l'inchiesta di Calciopoli, come ha spiegato nel suo punto di vista Filippo Beatrice in questa intervista rilasciata a Raffaella Calandra? Cos'è

I tuoi denti si muovono, sono sensibili al caldo e al freddo. Le tue gengive sono infiammate, si sono abbassate. Soffri di alitosi. Potresti avere la parodontite e perdere i tuoi denti. Previenila e curala con una tecnica non invasiva, biologicamente guidata, grazie ad Excellence Dental Network. Prenota una visita a Milano, Torino, Bologna, Firenze o Roma all'800 090 106 o su excellencedentalnetwork.com. Non perdere tempo. Salva i tuoi denti. 800 090 106. Strade in diretta. Proseguono i rientri in città al termine del ponte del 2 giugno e al nord e sulle regioni tirreniche ci sono anche i temporali cui bisogna prestare particolare attenzione, specie in Toscana. Sull'autostrada si resta in coda verso Roma sia per chi proviene da Napoli sia per le provenienze da Firenze. In direzione nord il traffico è intensissimo e a tratti fermo dalla Toscana fino all'Emilia. Le code tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano sono per un incidente, hanno raggiunto i 5 chilometri. Per 16 chilometri le code per traffico sulla Cisa tra Fornovo e Parma. Incidenti anche sul raccordo Siena-Firenze, verso Firenze si resta tratti in coda a partire da Colle Valdelsa Nord e sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo con code tra L'Aquila e Torni in parte verso Roma. Sulla 3 la Salerno-Reggio Calabria, le code in direzione Salerno sono anche per lavori tra Lauria Nord e Buonabitacolo e tra Pepina e Contursi. Noi torniamo tra mezz'ora. Promo 24. L'emozione della Formula 1 è bello viverla da protagonisti. Con Pirelli si può. Acquistando 4 pneumatici Pirelli si riceve una card gratta e vinci per registrarsi sul sito e avere subito in premio una fotocamera Fuji. In più si possono vincere 2 biglietti per il Gran Premio di Monza. Non solo, una volta iscritti sul sito si partecipa anche al concorso online, scatta un'emozione e diventa protagonista con Pirelli. In palio 2 reflex e una videocamera digitale per la foto e il video più votati. Inoltre una giuria Pirelli decreterà i video e la foto più emozionanti e i vincitori riceveranno in premio VIP weekend per 2 persone per il Gran Premio di Abu Dhabi. Promozione valida fino al 5 agosto. Regolamento e rivenditori aderenti su pirelli.it/scatta e vinci. A tempo di sport. Allora, mi ha raggiunto Dario Ricci per questi ultimi 10 minuti di trasmissione. Vi racconterò lo sport serale, anche perché Dario avrai finale Roland Garros, perché non ce la facciamo qua, perché... Però che bello, che spettacolo. Bellissimo. Oggi si vede un tennis. Dicevamo prima, togliessero il campo, lasciassero le righe, questi due giocherebbero lo stesso. Sì, giocano. Là. No, ma per fortuna Federer si è ripreso, perché temevo che insomma non aveva una bella cera dopo i primi due set, soprattutto per quei 7 giochi consecutivi lasciati dal suo match ball fino al dal suo set ball nel primo set fino al 2-0 di Nadal nella seconda partita. Adesso si sta combattendo nel quarto set, combattendo la parola giusta, battaglia sportiva agonistica se ce n'è una. E la situazione è in parità, non ci sono fin qui break. 2-1 Nadal, Federer al servizio. E Andrea Zorzi con noi. Ciao Andrea! Ciao Carlo! Una battaglia, anche per me una battaglia. Oggi. Perché? Perché stiamo rientrando dopo l'ultima tappa del nostro viaggio a Roma. Ah. E abbiamo fatto gli Appennini. Sì? Da Firenze verso Bologna. Sotto un acquazzone, una grandinata da sì, paura. Sì. A quel punto Gianni, che sarebbe il soprannome che ha dato al nostro camper, decide che è il momento di dare un po' di riposo ai tergicristallo. C'hai presente? Tutti quanti avanti a guardare con 10 occhi, ci vediamo qualche barlume di faro rosso davanti a noi. Come se non bastasse, 5 minuti dopo, Gianni dà riposo anche il riscaldamento e si appanna anche il vetro. Una testa fuori a destra, una a sinistra. Fortuna che aspettare l'arcobaleno no, Ma no, non si poteva, erano due corsie strette senza emergenza. Quindi siamo andati avanti, c'era un autogrill, siamo fermati noi e un nuvolo di moto, ma loro c'è una buona ragione, io quel camper facevo anche un po' impressione, perché ero lì in mezzo a queste motorine piccole, però siamo sani e salvi. Beh, però ti ha portato in giro per l'Italia, Gianni, dai, non ti lamentare. Figurati, Gianni è uno dei miei più cari amici, ci mancherebbe, ormai fa parte di me da un sacco di anni, da 21 anni per la precisione. Cosa hai trovato a Roma? A Roma abbiamo fatto questo viaggio bellissimo in questo luogo straordinario che è il Foro Italico, nel senso che è veramente un posto meraviglioso. Tra l'altro una cosa che non avevo mai notato è che oltre alle strutture bellissime, stadio del nuoto, stadio dei marmi, olimpico, stadio del tennis, di fronte c'è il Tevere e per un paio di chilometri a destra e a sinistra tutte le rive sono comunque attrezzate con bellissimi centri sportivi, ma anche con il lo spazio dove correre a piedi e correre in bicicletta. Quindi è veramente una città che lì è nata sportivamente parlando e poi si è sviluppata. Tu sai che in questo viaggio abbiamo fatto un po' di attenzione a quella che era la fruibilità degli impianti sportivi, anche quelli molto semplici, e quindi piste ciclabili, piste per correre, è stato veramente molto bello. Poi farlo a Roma sul Tevere è ovviamente un'opportunità unica e incredibile. Senti, adesso torna con Gianni e poi ti aspettiamo qui. Perché... Dai, passo a raccontarvi il resto. Siamo stati anche in carcere, te lo volevo dire, a Campobasso. Questa però te la racconto la prossima volta. Eh sì, teniamo un po' di suspense, anche perché il carcere mi sembra un luogo adatto all'aria che tira in questi giorni, tra scommesse e quant'altro, quindi tutti in procura. Visitarlo come luogo dello sport, che raramente viene considerato un luogo di sport, ma questo era il nostro obiettivo. Questa è la nostra prossima storia con Andrea Zorzi, che io ringrazio. Invece c'è Nadal che strappa servizio a Federer, si porta sul 3-1, nel quarto set conduce 2-7-1 a Parigi. Stefano Valenti invece sta per vedere insieme a tutti noi la partita che potrebbe disegnare definitivamente la finale. Stefano Valenti di Superbasket. Ciao Stefano. Ciao, buonasera. Allora, partiamo dai pronostici, visto che tanto siamo in clima, no? Scommesse, sì. Eccetera. Non scommettiamo. No, mai scommesso in vita mia, però comincerò a farlo. Giuro che comincio a farlo. Cosa succede secondo te stasera tra Cantù e Milano? È difficile, anche se secondo me... Ti dovessi dire, ieri sera ero a Treviso e raccogliendo un po' di pareri in giro c'è una clamorosa maggioranza che è certa che si va alla gara 5. Quindi molti sono, come dire, hanno visto una Cantù effettivamente stanca. E Milano deve giocare una partita ovviamente molto simile a quella appena giocata, appena vinta, perché la situazione è identica, cioè spalla al muro e non alternative e deve vincere. Cantù ha giocato una partita povera, secondo me però Cantù ragiona nell'ottica delle 5 partite. Nell'ottica delle 5 partite, dopo aver fatto il suo, cioè essere andata sul 2-0, ovviamente spendendo grosse energie, perché comunque soprattutto la seconda è stata una partita di grande sofferenza, che però andava vinta a tutti i costi, ragionando nell'ottica delle 5 probabilmente gara 3 era quella, come dire, vediamo un po' come va, vediamo se abbiamo la grande serata di tiro che ci permette di chiuderla in 3 oppure non forziamo troppo, perché è chiaro che Cantù non può arrivare senza energia a gare 5 in casa, perché a quel punto anche se si gioca a Pianella rischia di perderla. E allora magari squadra non lunghissima, squadra non giovanissima, forse gara 3 era quella sulla quale Trinchieri ha spinto un po' di meno, per vedere se Milano ha la forza di vincere le sue 2 partite e poi, ripeto, arrivare comunque con le risorse necessarie per vincere la quinta. Vero pure Stefano che in gara 3 si è visto qualcosa di diverso, no? E faccio riferimento in casa Olimpia alla marcatura di Jabber su Mazzarino, Hawkins su Green, insomma coach Peterson ci ha messo del suo. A questo punto palla nel campo di coach Trinchieri, quale può essere la risposta o invece la mossa per cambiare le carte in tavola? Ma sai, in gara 3 sicuramente l'impatto decisivo è stato quello di Hawkins in attacco, cioè la continuità con la quale ha trovato canestro o ha creato i tiri ad esempio sui cambi di difesa di Cantù, abbattendo la zona che Trinchieri ha provato nel finale di gara. Cantù non è squadra da solista, non è squadra che si affida a un giocatore o due giocatori per provare a uscire da una serata, diciamo, complessa, una serata magari con percentuali di tiro deboli. È squadra comunque di sistema, quindi è il sistema che ha reso Cantù capace di giocare la finale di Coppa Italia a viso aperto contro Siena e di cesellare questo secondo posto di stagione regolare. E sarà ancora la squadra il punto di forza di stasera, che deve comunque, ripeto, tornare a rendere più evidente la qualità del suo gioco, perché è altrettanto vero che probabilmente quelle scelte difensive di cui parlavi saranno ripetute anche stasera, perché Hawkins mette grande pressione su Green e Jabber ha ovviamente più freschezza atletica nei confronti di Mazzarino. Mazzarino è un giocatore incredibile, ha 35 anni, lo sappiamo, lavora e va a trovare le sue soluzioni grazie alla qualità dei blocchi che la squadra crea, sì, per lui. Se questa sera questa qualità torniamo a vederla, Mazzarino può tornare a essere un fattore, sì, altrimenti mi aspetto che non venga spremuto neanche stasera se la partita prende una certa piega, perché poi Mazzarino non può non essere decisivo nella gara 5. Sicuro, comunque sarà cruciale per Cantù, perché è un bel azzardo scommettere su gara 5 con una squadra più corta, meno potente fisicamente e poi con la prospettiva di voler andare in finale. Cioè per Cantù sarebbe il caso di chiuderla, di provare a chiuderla alla svelta questa serie, perché più si allunga più la palla va nel campo di Milano. Questa è una sensazione, ma tanto stasera 20:15 tutti in campo e dalle 22 circa facciamo magari altri discorsi. Io ringrazio Stefano Valenti, ringrazio Dario Ricci che vi racconterà chi vince Roland Garros. Sicuro. Chi va in finale di basket o se ci o sarà una quinta avvicina. Partita. Cos'altro c'è stasera? Beh, poi i playoff di Serie B. Mamma insomma, mia, comunque... regalo. Playoff di Serie B te li regalo. Che poi chissà che se valgono, insomma. Appunto, chissà se valgono, chissà se contano. Noi ci sentiamo domani e tutta la settimana e tutta l'estate dalle 14 alle 15 con A Tempo di Sport. Grazie a Giorgio De Luca in redazione e a Roberto Scaltritti in regia. A domani.